Sembra di sì. Sì, sì. Ed è anche su no play preciso. La senti anche tu? Ciao. That you got, everything else that you might, all the desires in your mind, all the desires in your heart, you should know how to fondle now, everything else is in the thought, I don't need you to tell me when, to decide my life and where, I just need myself to, just know the ways I need, you should know how to fondle now, everything else is in the thought, I don't need you to tell me when, to decide my life and where, I need myself to just know the ways I need. I could see through your eyes. I don't know. Vabbè, insomma, non facciamo andare troppa musica, cerchiamo di sproloquiare il più possibile. Esatto. Visto che non ci ricordiamo più come si fa. Esatto. Infatti ti ho messo anche una canzone che dura 2 minuti, ho detto così almeno riusciamo a tagliare 1 minuto. Qua 4 minuti ho trovato. Attenzione, no, infatti ne ho messo un'altra che è un po' più lunghella. Che è un po' più corta, scusami. Te la lascio di sottofondo, quasi quasi. Bello, ci piace sottofondo. Questo si sposa bene con questo solo che tu vedi nella videocamera dietro. Molto brutto bastardo. Quasi. Caino, io sono qua col grigio di Milano. E tu mi piazzi sta webcam. Grande infamate da parte del Manza. Grande infamate. Tra l'altro, beh, bentornati. Io non ho scritto neanche un post, niente per pubblicizzare, quindi probabilmente saremo. No, noi chiacchieriamo. Nessuno sa, nessuno deve sapere. Nessuno sa. Cioè, manteniamo in incognito. Tornati. E con un mese di ritardo rispetto all'inizio delle vacanze. Ma perché qua l'estate dura di più. Giusto. quindi sono un po' quello. È giusto passato. Scusami. È giusto passato quel mese per farti tornare poi la nostalgia delle vacanze. Quel senso di tristezza che il sole comincia a calare prima, la sera fa freschino, le birre non le vuoi più così ghiacciate come le volevi prima, insomma. Tutta la cosa che ci fa un po' presagire che l'autunno sta arrivando. Eccolo. E sì, poi in realtà è stato un tema molto pieno, nel senso che tra tornato in Italia, c'era un matrimonio, ho dovuto fare il testimone, ho dovuto bere un sacco per tutte le persone che avevano voglia di dire minchia Manza, sei tornato, devo bere una birra. E quindi poi alla fine è successo quello che è successo. Sempre succede quello che deve succedere. Esatto. È un po' la protesi del complotto. Esatto. Infatti oggi diremo due vaccate in compagnia delle vacanze, che sono belle, ma sono già finite. Sì, tu quanto sei riuscito a fare di vacanze? Io ho fatto 5 giorni a maggio, 2 settimane ad agosto e 4 giorni adesso, e manca l'ultimo giorno di ferie da sparagnare a una certa, tipo adesso. Un giorno non si fa. No, beh, sì, un giorno l'attacco weekend, mi faccio weekendino lungo. Ah, giusto. Saggio. Bello tranquillo. Tra quante vacanze hai fatto? Io ho fatto 2 settimane. Bello. E sto per morire, praticamente. Basta che anch'io, cioè, sta cosa che sono solo 2 settimane e basta, ragazzi. Devo trovare il modo di fargli capire che non si fa così. No, cioè, bisognerebbe lavorare 6 ore al giorno, 3 giorni alla settimana e tutto il resto dovrebbe essere tempo sì. e spazio per le proprie cose, per un vivere più sano. Ma infatti, cioè, secondo me, se fosse così, finirebbe che neanche le città stesse come le pensiamo avrebbero senso, perché alla fine se devi lavorare 6 ore per giorno a settimana, alla fine non dici che cazzo ci sto in città. Assolutamente, no? Cioè, per comprarsi quegli abiti nei megastore della moda veloce. Quello era anche della moda lenta, minchia, mi ricordo quando era tornato a dicembre di quest'anno che c'era il Covid, le cose, eh? Nonostante la gente che ti dice minchia la crisi, le cose, eh? Louis Vuitton in Monte Napoleone pieno con la coda fuori, che dice cazzo, non si erano ancora resi conto, pensavano di aver risparmiato, e invece esatto, dalle a me pezzo di merda quei soldi. Dagli a me. E cosa hai fatto queste 2 settimane? Queste 2 settimane sono stato in montagna. E... Ah, è vero, tu sei un aficionados di Dolomiti, no? Aficionados total. E niente, passeggiato, arrampicato un pochino, però bisogna... Devo sfogarmi. No. No? Sono una zebra? Vittima del fascino delle montagne. Ah, sì? Sì, beh, sono anche marittimo, solo no, può colpire. Ma sei anche marittimo dove? Sono marittimo dove si vede il fondo. Ok. O dove si fa surf. Rapallo. Ah, dove si fa rapallo. Tra una serpente e l'altra. Cosa ti interessa? Che schifo, Dio cane. Che schifo. Ma invece sono appena tornato da una bella isoletta che si chiama Serifos, che consiglio a tutti. È molto molto bella. Poco battuta, bella gente, bell'ambiente, belle spiagge. Veramente una piccola chicca, veramente, veramente. Poi ho fatto 2 settimane anche di isole greche, molto molto belle, tutto molto molto bello. Potrebbero essere anche il mio mare. Sì, poi sai, c'è questa cosa per cui il giro delle Cicladi, il grande classico del viaggio, ma chi sono io per dire che non è il grande classico del viaggio? Famolo, ci sta. E devo dire che è molto bello, cioè più che altro, sai cosa mi ha colpito tantissimo? Una cosa mi ha colpito tantissimo e ne ho discusso tanto anche con amici. Quanto in Italia fa schifo come trattano i turisti e quanto invece è bello qua. Che è veramente una sensazione stupenda, perché qua non hai mai la sensazione che ti stiano scammando, cioè ti inculano con 15 euro una margherita che dici ma perché, oppure che non so, ti bevi 2 amari e alla fine ti mettono quei 2 amari nel conto e erano 5 euro di amaro alla fine, perché ho pagato 2 amari quanto una pizza che ho pagato una pizza, e ho gli ombrelloni che sono un'altra grandissima cosa per cui dategli fuoco, e insomma tutte queste meraviglie qua non costano, mangi fuori con piacere, non ha senso comprarsi le cose per mangiare in casa perché costa meno mangiare al ristorante. Madonna, un paradiso. Mangi meglio e non ti fai le rotture di cazzo, e invece poi tu pensi all'Italia e ti dici che merda, siete dei bastardi. Ma sarà così dappertutto? Non lo so, però tipo ti faccio un esempio che mi ha stupito un sacco. Eravamo in quest'isola che ha uno scoglio attaccato tipo lungo 4 km che non c'è assolutamente niente, una taverna dove tutti si buttano a fare i free camp. E giustamente se c'è questo scoglio dove non c'è un cazzo di niente, tu ti aspetti che sta taverna, un piatto di pasta, te lo fa pagare 20 euro, perché è l'unica pappa che ti puoi fare. E invece la bellezza di lì è che tu entravi, c'era questa meravigliosa foto del Che Guevara con Fidel Castro, mangiava un piatto di pasta a 6 euro e dicevi minchia che bello questo mondo. Ed è una cosa che mi ha stupito un sacco, perché sei in Italia, quando vai in un posto magari un po' isolato, un po' particolare, alla fine sai, sono qui, sono l'unico che lo fa, spese di trasporto, 20 euro le linguine con le vongole. E cioè abuso di posizione predominante, credo che sia anche un reato che si chiama così. Esiste? Sì. Beh, allora è lui. È quello che tipo c'ha Google sulle ricerche, che gli stanno facendo una causa, lui mi pare, con la Margaret Verstager. Ci sta. Installiamo Bing. Esatto, installiamo Bing. Perché infatti nella loro difesa l'ho scoperto, perché la cosa che ha detto il legale di Google è stata: ma voi lo sapete qual è la parola più cercata su Bing? No, Google. È così. C'è molto da quelle cose. C'è niente da fare. Tra tutte le aziende che ti fanno firmare termini, condizioni, privacy, penso che a Google tutti ormai abbiano venduto il culo. Sì, beh, cioè, devi solo scegliere chi venderlo nella vita, non è che scegli di non venderlo. No, però sai, uno può scegliere di venderlo a Apple o a PC, però in tutti e due i casi lo stai vendendo a Google comunque. Sì, abbastanza. È cross-platform. Se no puoi avere un bel cellulare cinese, uno Xiaomi collegato e formattato secondo il governo della Repubblica Popolare Cinese. Dici che non c'è Google? No, no, ma no, cioè c'è Android ma non c'è Google. Strano. Perché se gli danno soldi agli americani. Che mondo strano deve essere. Deve essere bellissimo. Fino al momento in cui stai andando fuori a prendere il cane, loro ti scoprono qualunque cosa che ti potevano scoprire e ti si incura. Tosto. Tosto che sì, tosto che sì. Tu cos'hai? Un cellulare? Io ho un cellulare francese. francese. Che cazzo vuol dire? È una Citroën. Eh sì, è una Citroën. Inizia con C. No, un cross call, tipo gradazione militare, che lo puoi lanciare in acqua contro uno scoglio e sopravvive. Che zoar. Ma c'ha sì. Google dentro comunque. C'è Android con dentro Android. Anche Google. Sì, tutti i sistemi di difesa sono di Google. Le Google. Le Google. Charles de Gaulle. E, va bene, quindi il tema di oggi le grandi vacanze. A te cosa sta sul cazzo quando vai in vacanza? Cioè, quella cosa proprio che ti fa dire voglio morire, non dovevo venire qui, mortacci vostra, riportatemi a Milano che è tutto sommato meglio. Posso essere misantropo? Può essere anche misogino. No, questo è un problema. Le persone. Bravo, sono d'accordo. Le persone. Sta d'accordo. Cioè, credo che la vacanza ideale risulterebbe in me da solo. Ecco, non sono così estremista. Me da solo no, ma magari con una buona compagnia sì, ecco. Una però, non più di una. Sì, no, anche 3-4 va bene, anche 10 ragazze per me, come diceva il buon Lucio, potrebbe andare bene. Possono bastare. Possono bastare, esatto. No, però sì, sono d'accordo. Io oggi lo chiedevo, infatti, è stato curioso, l'ho chiesto ai miei coinquilini oggi a pranzo mentre scrivo le note. Ho detto, boh raga, ma voi cosa dà fastidio quando siete? Poi fanno, non piace trovare parcheggio. Ma che cazzo vuol dire non trovare parcheggio? Porco diazzo. Ma poi non è un problema delle vacanze. Vacanze, il parcheggio. Esatto, è un problema della vita. Esatto. Parliamo di livello. E, insomma, quindi poi siamo saliti un po' di livello, però erano tutte cose che ma voi non stanno sul cazzo gli altri come voi, cioè noi stessi in primis e poi le persone che turisteggiano proprio. Ah sì, in effetti non ci avevo pensato, minchia, la cosa che odio di più di tutte è, non so, tra le tante cose forse una voce francese che chiede uno sconto a un greco rimane uno degli stridi sui vetri più brutti che abbia mai sentito. Scusami, ma non duro le discount? Ma cagare, questo qua ti stai chiedendo 5. Sì, cioè ti stai chiedendo 5 euro per mezzo chilo di polpo e tu gli vai a chiedere pagare 4,50 per un colonialista. Che a casa non lo mangeresti mai così e costerebbe probabilmente 30. Esatto, comunque un saluto a tutti i nostri amici francesi, vi voglio bene, ma questa cosa, mamma mia, quanto mi era stata sulle palle da vedere. E poi anche, sai cosa, a me sta un sacco sulle scatole, cioè è brutto perché credo di esserci cascato, cioè è bello avere le foto di un viaggio ed è bello farle, ma sai che sono arrivato a un punto in cui mi dà fastidio farle perché vedo tutti che le fanno e quindi dico no. Cioè sono arrivato al punto in cui quasi non le voglio avere, mi dispiace un sacco. Ci sta, guarda, recentemente è stata tirata fuori da una cantina, una vecchia analogica che ci avrà 40 anni e mi sono rimesso a usarla e ho bruciato un rullino subito. Giusto. Il secondo l'ho iniziato 2 settimane fa e sono ancora a metà. E ci ho pensato molto. 36. Quante sì. Foto del 36? E una roba del genere. E ci ho pensato anch'io sta cosa. Che sì, è un tic quasi. Sì. È anche un po' una pornografia delle persone. Cioè, mi spiego. Cioè, ci stavo pensando adesso, sono andato. Sì, non te lo inquadro perché ho paura di tirare il computer fuori dalla finestra dal balcone. Ma sopra casa mia c'è tipo il monastero in alto, il Licabet, questo colle che in alto, vai in alto e chiaramente orde di persone che fanno le foto, tutte uguali. E telefono con un mio amico che non sentivo da tanto, ma adesso perché manzo c'è questo fiatone qua devastante, sto facendo 190.000, ho salito 1 milione di scale come dicevo Gino Montale e mi fa dai mandami una foto, ed è bello ed è giusto che mandiamo le foto così le altre persone possono vederlo, possono in un qualche modo empatizzare con noi, allo stesso tempo è curioso come la nostra vita diventa quasi un po' la pornografia, no? C'è sempre bisogno di un'immagine che ti faccia capire l'altro che sta a fare, non so come dire. Sì, forse però diventa appunto troppo. Va a sostituire il ricordo romantico con una realtà spiatta. Sì. Non c'è tutto in una fotografia, io... e poi ti perdi anche un po' l'attimo, insomma, a farla. Questa è un'altra cosa molto importante su cui riflettevo, cioè che alla fine a me ci sono delle volte in cui proprio mi dispiace perdere quell'attimo, cioè che dico, ma sai che, cioè, a me non mi ha fatto un cazzo, cioè me lo ricorderò sto tramonto, mi ricorderò che era meraviglioso e preferisco fumarmi una pagliuzza. È buona così, sai che c'è. Poi magari non te lo ricordi neanche, però te lo sei goduto. No, esatto. In realtà quello che succede, dici, figa, se avessi fatto una foto, se la potrei stampare. Un coloide di merda, tu i tuoi pregiudizi. Da, no, invece da no, invece no, perché non so, che sia un evento o che sia tu in cima a una montagna o davanti a un tramonto. Se tu fai quella foto, non ti stai godendo appieno quell'attimo, perché sei concentrato a fare la foto. E poi l'altra cosa che mi verrebbe da dire è, io sono un cane a fare le foto, ho un dispositivo che fa schifo, vedo che ci sono altre 300.000 persone che fanno le foto uguali, se devo andare a rivedere come si vede da quella vetta o quel tramonto o quell'evento, mi vado a vedere, non so, un trailer ufficiale del concerto di Vasco, sì, piuttosto. Oppure fai hashtag tramonto Santorini e dici, ah, ecco com'era figo, vedi, esatto, era come con questa cinese, ma c'ero io che faceva la foto. Immaginati questa cosa qua. Sì, cioè non è che stai lì e te lo studi e scatti il più bello scatto, no, della, esatto, tua vita lì, e poi te lo riguardi in, esatto, diapositiva. Quella è un'altra storia, esatto, quella è un'altra storia, perché lì c'è cura, cioè lo fai per passione, non so come dire. Lì invece è un po', quindi, un tic per, come dire, cacchio, è proprio bello, me lo godrò per sempre, tac, e invece né prima né dopo, insomma. È vero, è verissimo, né prima né dopo, sono stato d'accordo. Cioè, è veramente una cosa molto, molto, molto curiosa. Va bene, primo pezzo di sproloquio finito, andiamo con il secondo pezzo. Andiamo, 3, 2, 1. In realtà io ti proporrei, vai. Dimmi, dimmi. Dopo adesso te ne scrivo un altro. No, te ne scrivo un altro lì sul Docs. Buono. Can't forget. Down with his story. Oh, Better Days. Better Days. Voilà, questo l'abbiamo fatto finire. Sì, quasi. Ho giusto tolto l'ultimo secondo. Qual è la più grande truffa che ha subito da turista? Bella domanda. Quella del semplicemente essere chiamato turista mi sembra già una grande truffa. O che il fatto che il turismo esista, però vabbè, è troppo, troppo ideologico. No, proprio quella volta che dici minchia, qua l'hanno fottuto. Vendite di stupefacenti. La Rambla, Amsterdam. Ma anch'io stavo pensando alla stessa cosa. Quel genere di truffa. Minchia, penso che ci siamo passati tutti. Sì. Sono bravi, sono bravi. E tra l'altro, cioè, secondo me sono campani. Al 90% dei casi. Sì. Italiano, ma la quella marijuana, quella buona. E dici, minchia, grande frate, anche tu italiano. Sì. E poi... No, scherzo. Però sì, vendite stupefacenti la Rambla. Penso che tutta la nostra generazione che ha visto il gol di grosso a un'età decente l'ha subita questa cosa. È così. Io non lo so, quella è una grande truffa. Una truffa e poi anche un giro alla stazione di polizia. Quindi, insomma, non piacevole. Non bellissima. Per quanto poi meglio un birro catalano che non un carabiniere. E poi anche, sì, in generale anche loro sono una truffa. Sì. Quindi conta, doppio. Sto pensando a quella con la canzone in cui dico c'è questa qua una truffa, ma non mi viene in mente. E sì, scammata violente, quelle assolutamente, ma le più belle sulla Rambla in realtà sono quelle, non so se le hai mai visti, quelli che fanno il classico gioco dove uno muove i tre bicchieri che hanno dentro un sassolino e tu devi azzeccare. Certo. E c'è il socio che scommette, vince, che in realtà è il socio. E dice, minchia, aspetta che ci butto 5 euro che vinco faccio. E niente. E poi ti è successo, l'hai trovato? Sei caduto nel gioco delle tre carte. L'ho visto e l'ho trovato molto affascinante e mi sono chiesto perché ho studiato ingegneria a quel punto. quando uno schema così banale porta profitti molto maggiori, niente menate di tasse. Ci può stare. Ottimo ragionamento. Con una prospettiva molto positivista, sì. Ha molto senso. E viaggio più bello. Viaggio più bello, no, restiamo un attimo sulle truffe. Io ho una cosa da dire sulle truffe. E riguarda anche il tipo di turista. Ahia. Perché ci sono tipi di turiste, di turiste e di turisti. E se dici turista, la prima cosa che penso sono le tedesche sulla riviera romagnola. No, loro sono dei buoni turisti alla fine, penso, cioè non chiedono lo sconto come il francese in Grecia. No, poi tornano a casa con un Wolfgang Bersani in più, esatto. Un piccolo pargolo che vuole fare il bagnino nonostante sia di Stoccarda. What the fuck? Che storia è questa? Ma no, sai, c'è sempre la cosa che tutte le turiste tedesche che vanno in riviera, cioè alla fine arriva un bel imbusto romagnolo che gli fa capire che l'arte del tortellino se l'ha intorta e poi alla fine torna a casa con un bel pargolino piccolino e insomma, e poi questi bambini di Bagnini o di... come si chiamano quelli? Ecco, questa è una figura che io detesto anche se ammiro, che è quello, l'animatore turistico. È l'animatore. Cioè, l'animatore è un concetto pazzesco. Ma ci sono anche animatori con tre lauree in psicopedagogia e tutte, certo, queste cazzi. Se no non facevano quei belli spettacoli. Ecco. ecco, se devo lamentarmi di qualcosa, penso che il mio cammino sulla strada della droga sia stato intrapreso anche grazie o a causa di un animatore. Ma davvero? All'età di 8 anni. Ma questo è grave. A me dal bagnino, che è un po' una sottocategoria dell'animatore, del bagnino della piscina di un campeggio. Ci sta. Però 8 anni pesante, vorrei raccontarvi fare questo outing. No, 8 anni tipo che non che stavo lì con le spade, ma... con loro che eventualmente difendevano facevano, stampavano magliette, scrivevano viva la gancia, cose del genere. Ah, ok. Ed erano anche gnocche, quindi quella? Poi ti rimane in testa, capito? Dici, ma sì, sono correlate le due cose, devo... Perché io non ho mai visto un proibizionista bello. È vero, anche quello. La russa o Adinolfi e dico, boh, raga. Allora sono correlate. E no, anche a me è successo con un bagnino alla nobile età di io, 13 o 14 anni, che mi ricordo di comprare il fumo e niente, ed era molto divertente perché chiaramente poi la prima volta che fumi, comunque la cosa che dice è ma sa di rosmarino, e poi non sai che cos'è la fame chimica, quindi la prima volta sei tipo una voragine, una crepa che si è aperta nel tuo stomaco e che si divora l'indivorabile. La fortuna dei McDonald's. Vabbè, ma scusa, e quindi ti ha truffato lui o ti ha solo portato sulla buona strada? No, solo la buona strada. No, volevo partire dicendo che secondo me c'è una classe di turisti che anche molto dispendiosa, che poi magari arriva in un hotel, trova la coperta del letto inclinata di 35 gradi al posto di 40 e sbiella e si fa rimborsare tutta la vacanza. E da un certo quello punto io gli consiglierei un bel viaggio in Nord Corea, biglietto di sua andata, sì. Però da un certo punto di vista sono ammirevoli, dovrai convenire, perché cioè si fanno rimborsare tutta la vacanza, sono dei geni. Sì, cioè non lo so, è quella roba per cui si sono d'accordo, ma dall'altro lato dico, sei fatta rimborsare, sei un rompicoglioni. Sì, portato sì, all'eccesso, sì. E questa società accetta che tu sia così tanto rompicoglioni che io ti devo ridare anche indietro i soldi, ma mi mattacci tu. Sì. Fosse una truffa vera, forse sarebbe più accettabile, ma essendo che si è proprio fatto venire il sangue amaro per quel 2-3 giorni, esatto. Allora è riprovevole. Ma infatti non so se avevi seguito una polemica su questo tipo che c'era stata quest'anno con questa Instagrammer di cui io chiaramente non sapevo una minchia di niente, ma che grazie al Twitter tutto sommato certe robe arrivano, diciamo, di sghindescio, che è andata a Palermo, ha pubblicato una serie di storie, diciamo, per far capire che lei vive a Milano e voi siete, io so io e voi non siete un cazzo, anzi siete pure terroni alle sue attenzioni, e c'è lei che fa un paio di pezzi, uno un tassista che non aveva senso, ma vuoi fare altro, dei nomi? Lei si chiama Imen Jane, ma sarà un'amica di Exalge, io avevo fatto una puttanata. Anche l'altra volta è successo, anche nella stagione 1 era successa una cosa sì. Del genere, stai attento. Infatti ho detto, sta a vedere che succede un'altra volta. E no, vabbè, ma un collasso di followers tipo da, non so, 200.000 a 100.000 in un giorno. E poi perché ha fatto un altro pezzo meraviglioso alla reception dell'hotel in cui chiede cosa vuole per colazione, e a Palermo, che dici, Cristo, sei in Sicilia, ti puoi mangiare, non lo so, ma manca un polpo a colazione, il couscous, l'arancino, la cassatina, il cannolo, la granita, la bracciatetta col gelato dentro. E se poi va davanti altri 10 minuti a questa testa di merda, guarda cosa chiede? Crumble Dag. Dice, ascolta, ti chiedi se è la società il problema che l'ha portata a chiedere del cazzo di Scrambled Eggs a Palermo, o se è lei che ha voluto diventare così. Sì a entrambe le domande, come dice Draghi. Come sì. Dice... No, e quindi non lo so, cioè quella roba, quella classe lì di turista è veramente... La solita diatriba, cioè no, tu prima l'uovo o la gallina, è la società che ti forma, sei tu che la crei, colpa di tutte e due, dai. Colpa di tutte e due, consigliamo comunque anche alla nostra MJ un bel viaggio a fare snorkeling a Fukushima, che mi hanno detto che l'acqua è pulita, si sta benissimo. Possibilmente le consiglio di cacciare a mani nude un polpo a 57 teste e di farsi un bel polpo alla terra. Questo è quello che noi, che io mi sento di caldeggiare. Buono. Polpo alla piastra. Ecco, invece su questo proposito mi viene in mente una frase che mi ha detto quel mio amico che si è sposato adesso a settembre. Auguri. Sì, è stato molto molto emozionante. Cosa si fa di solito? Si fanno gli auguri e i complimenti o le Ma non lo so, cioè io viva gli sposi, no? Cioè, un grande classico, non sbaglio. Ah, giusto. Lo vedi e dici, ehi, viva gli sposi. No, vabbè, io ero il testimone, quindi insomma, grandi abbracci, grandi lacrime e grandi cose che dici, porca la parola, il matrimonio, figa. E che è proprio vero quella cosa che ti dicono quando ti lauri, che dici, sì, stai tranquillo che massimo che ti vedete tutti insieme al matrimonio. Ah, sì. E poi invece succede proprio quella cosa lì. E lui non era mai venuto in Grecia, tendenzialmente va a farsi grandi giri in bicicletta, o in Sardegna, o in Sicilia, una persona che odia, che anche lui ti assomiglia in questo, nel senso, se fa il turista è per i cazzi proprio, appunto, con la sua sposa, adesso lo possiamo. E si è sempre fatto un po' di Sardegna, Sicilia, Islanda, insomma, posti abbastanza isolati, cioè che dove vuoi, se vuoi puoi isolarti, ed è venuto a Sifnos a fare la luna di miele per la prima volta in Grecia, su un'isola greca, e mi ha stupito un sacco perché mi ha detto, minchia, c'è quella roba che dicevamo prima, che in Italia non sappiamo fare il turismo, soprattutto ha detto una frase bellissima, che è, qua ti fanno sentire che una vacanza è un diritto e non un lusso. Io ho trovato una cosa bellissima, cioè che tu ti possa fare una vacanza che è un diritto, cioè che è un mio diritto non dover spendere un cristo, un mio diritto mangiare bene, che ci sta che tu faccia il cibo buono, che non debba pagare il parcheggio della macchina, perché magari sta a fare il giro dell'isola in macchina, non lo devi pagare, con un ombrellone non costa 25 euro a ombrellone, e poi se vuoi il lettino sono altri 25 euro. E ho trovato una frase bellissima, perché è come dovrebbe essere una vacanza. Sì, abbastanza grave allo stesso punto di vista, allo stesso momento, perché se ci pensi sono condizioni che si creano nel momento in cui magari nel paese in cui vai c'è una situazione economica diversa da quella del tuo paese. Chiaro, cioè tipo il 60% del PIL greco è turismo, quindi voglio dire, o lo fanno bene o lo fanno bene, non è che scappa. No, lo fanno bene, però potrebbero... cioè come lo fanno pagare a Jesolo, potrebbero far pagare lì. Cioè non lo fanno perché l'economia è diversa, tutto costa meno, sì, cioè, sì, ma come c'è dire anche... in Thailandia con 1000 euro vivi per un anno, sì. È una cosa bella e sono tutti gentili e simpatici tranne quelli che ti tagliano le mani, però è una cosa grave anche. È molto vero, però è un po' anche qui un cane che si morde la coda, nel modo in cui, cioè, poi se costa tanto la gente non ci viene, tu ci perdi alla fine, la pigli nel culo. Invece dire, quello che tipo, è successo... dove costa tanto ci vanno comunque. È vero, è vero, è vero. Il peccato che costa tanto in posti di merda e nei posti più belli del mondo invece costa poco. Cioè, questo è vero. Perché poi sai, ci sono quei posti che vengono talmente inflati. Cioè, per dire, qui è verissimo su Santorini. Cioè, che è un posto che era molto bello, ma che conosco persone che sono andate magari 10 anni fa, che ti dicono, oh, se era un paradiso, nel senso che non c'era nessuno. Adesso, per prenderti un caffè la sera al tramonto a Santorini, devi prenotare 3 giorni prima perché... c'è andata così tanta gente, Ryanair ci ha fatto il volo che costa poco, quel cazzo che ti pare, alla fine costa un fracco di soldi. E quindi viene da dire, non lo so, perché poi è il brutto di quando un posto costa tanto, comincia a costare giusto che non tutti ne possono usufruire. Sì. E che quindi... poi non è diversa dal resto della Grecia. No, cioè è un po' più particolare, ma cioè, ho visto che sono splendidi e non hanno ancora subito quella potenza lì. Vuoi perché magari non hanno un'isola che non ha un aeroporto. E quindi già quello comunque tende a scoraggiare qualunque tipo di movimento veloce, fast tourism. Però anche lì tu, sia economicamente parlando che dal punto di vista della bellezza, pagheresti di più per un'isola senza un aeroporto o con un aeroporto? Ah, perché io sono io pagherei di più per un'isola senza aeroporto. Ma anche dal punto di vista economico, oggettivamente, ha molto più senso pagare di più in un'isola in cui le cose non arrivano col... sì. Col jet fuel. Molto di più. Sì, molto di più. È un po' come dire, perché... cioè, è l'economia globale che non ha senso. No. Beh, se ci pensi, questo è successo anche tantissimo sulle Alpi italiane. Cioè, non so, perché quando ero piccolo, comunque andare in montagna non era un lusso. Tu andavi in montagna, non lo so, noi andavamo vicino ad Alagna, in un villaggio valzer a 1000 salcazzo metri, e non lo so, pagavamo una minchia fritta l'affitto tutto l'anno, e non era una cosa da ricchi, cioè andare a sciare, andare a fare le passeggiate, ma non era vista come uno, oh mio Dio, in montagna, cosa che adesso a me sembra molto di più, no? Sì, sicuramente. Cioè le montagne hanno subito tantissimo, secondo me, la massificazione. Sono rovinate di brutto, c'è sempre più gente e allo stesso tempo costa sempre di più. Sì, per quel paradosso lì. Eppure c'è sempre più gente, sì. Come dire, costa tanto, va bene, ci va, vuol dire che è stupendo, che è una cosa che devo assolutamente fare, ci vado per due giorni poi mi levo dal cazzo, sì, piuttosto sì, che cercare di viversela, starci per più tempo. E il fatto che tu ci vai per due giorni fai mettere in moto tutta una serie di macchine dell'economia, per cui poi costa ancora di più solo perché alla fine ti devo mungere quei due giorni, cioè, esatto, vuoi o non vuoi, alla fine è un po' quello. Però sì, è una cosa che a me fa male, perché mi ricordo davvero il villaggio Valzer sperduto, che mi ricordo quando prendevi la funivia che ti portava su al Monte Rosa, noi potevamo scendere in sci direttamente da su, cioè ghiacciaio casa lo potevi fare in sci, e l'ultimo pezzo era una strada innevata, cioè una stradina, cosa che adesso credo che ti parano una fucilata di soldi se hai una casa del genere. Ed è un po' un peccato, veramente un po' un peccato. Quindi non lo so, magari come si fa a fare il turista senza fare il turista, secondo te? Cioè, non, uscendo dalla logica del turismo, allora, uno cosa dovrebbe fare? Vivere viaggiando. Cioè, uno dovrebbe viaggiare se è il suo obiettivo della vita. Secondo me un primo approccio che io consiglio a tutti è, per quanto poco, cioè, io consiglierei a tutta la popolazione mondiale di studiare tante lingue, perché sono quella cosa che ti fa connettere meglio e più in fretta con delle altre persone. Ed è una cosa che, secondo me, già a te, ma anche a chi ti ascolta, ti fa sentire meno turista, perché hai fatto uno sforzo. Cioè, sei tu che stai ripagando un po' una moneta all'altro, dicendo: guarda che sono venuto qua, ma parlo perché lo voglio incastrare dentro questa cosa. E secondo me sarebbe una, cioè, in un mondo soprattutto globalizzato, adesso non dico che dovrebbe essere obbligatorio a scuola, però quasi, cioè, che va bene l'inglese, ci mette tutti d'accordo, ma poi uno secondo me dovrebbe studiare anche un'altra lingua, anche un'altra lingua, oltre al latino, aggiungo, perché il latino. Tu parli francese? Oui, je peux parler en français. Ah. E greco. Fluente? Mi scambiano per un greco, poi diciamo il mio livello è piuttosto sopravvivenza molto elevata, tipo B1. E si accorgono della truffa. Comunque, si accorgono della truffa quando cominciamo a parlare di cose tipo concrete, mi dicono una roba tipo: ah sì, oggi ho dipinto la balaustra del terrazzo. Io conosco terrazzo, conosco dipinto, ma se mi dici balaustra, chiaramente non ci sono mai passato, perché con il mio greco ordino al ristorante, chiedo informazioni e faccio burocrazia. Quindi magari so come si dice modulo 730 in greco, ma non so come si dice, che cazzo so, tenda. No, quello sì, è muro, non lo so. Com'è, difficile? Ma sì no, sì. Cioè è figo perché è molto l'alfabeto diverso. Quello scialla, cioè se hai fatto fisica all'università cammini. La cosa difficile è i vocaboli, perché poi la logica è mega logico. Quindi una volta che tu ti sei imparato X verbi e capito come sono strutturati i tempi verbali, sono... Aspetta che apro sto citofono. Sì. Tu continua a sproloquiare, va là. va là. No, non sproloquio, mi accendo una paglia. Fatto? Vai là, sveltina. Sveltina, sì. E no, vabbè, comunque bellissima lingua. Però sì, secondo me questa qua potrebbe essere una prima cosa. Cioè, a me fa sentire meglio. Anche quando sono andato in Francia, che sbiascicavo francese, ma però i francesi in questo sono anche non dolcissimi, come può essere un greco, uno spagnolo, un portoghese, ma... Fa sentire meglio anche gli altri. Ma meglio, direi. Sì, secondo me è un buon modo di dirgli: guarda, sto occupando il tuo suolo, ma lo faccio in pace. O sono una spia. Esatto. Tipo, l'hai vista il casino che è uscito con il giornalista infiltrato di Fanpage, che ha tirato fuori quel lago di merda nel partito della Meloni? No. Cos'è che ha fatto? Beh, è praticamente un giornalista, è stato sotto copertura 2 anni per fare da finanziatore a maledette moto, da finanziatore a Fratelli d'Italia, e l'hanno inserito dentro questo giro di affari loschissimo, per cui tutti questi finanziamenti avvenivano in nero, gli dicevano di fare tutto in nero, ma non solo, cioè diciamo con i vertici di Fratelli d'Italia c'erano questi meravigliosi ritrovi dove la gente faceva quei graziosi saluti a mano, a braccio destro teso alzato, e battute molto spiritose sugli ebrei e sulle minoranze in generale, qualche inneggiamento al buon vecchio Duce e Führer, e poi Terralluce e Vino, insomma, quelle cose da italietta. E lui è finito bene, però. Lui è finito bene, ha fatto questa cosa, non so se uscirà più di casa, io fossi lui mi trasferirei a Bangkok, perché, insomma, far incazzare dei fascistoni non bellissimo. O in Grecia, o su un'isola greca, più vicino. Esatto, bello, tranquillo. Mi sono perso, quindi potremmo mandare una canzone. Dai, ho visto il suggerimento, era dei Materazzi Future Club. Ma sì, buttiamola, domenica c'è il calcio, non so neanche quanto ha fatto il Milan. Dai, salutiamo i ragazzi del Materazzi. Salutiamo i ragazzi, ciao Edo. ultimamente. Stasera abbiamo sempre dimostrato di essere una squadra tosta e fatemelo passare questo, perché ormai è tardi, con due coglioni enormi sotto. Abita in un paese di 12.000 persone e gioca nei campi di terra battuta, penso che è il massimo arrivare a questi traguardi qua. Sarà partita dura, dopo sicuramente mi ha condizionato la munizione per difendere i miei compagni, l'ennesimo cagata che ho combinato. Il mio carattere è questo e bisogna accettarmi come sono. Scrivono sui giornali sono tutte cazzate, shit, smalachia, smalachia. Se vado in guerra, lui è una persona che lo porto e non c'è tanti come lui. Un mare di tifosi alla pescheria Gattuso Bianchi. Eravamo a cena, abbiamo deciso di fare una roba così, siccome il mio sogno è sempre stato quello. Volevo fare il pescatore quando ero piccolo e allora... C'è possibilità quindi di rivederti come pescatore o ormai hai abbandonato questo sogno? Fare il pescatore a Gallarate è duro, nel senso... E ci stai provando? Vendiamo il pesce. Vendiamo il pesce. Beh, un bel casino, no? Un bel casino, stavo giusto prendendo il Twitter che pare che la buona Giorgia abbia fatto un comunicato ufficiale in cui dice che era stato tutto studiato a tavolino per farlo uscire due giorni prima delle amministrative. E tu dici, certo, questo qua è stato 3 anni in incognito per far uscire sta merda, giustamente. Ha pensato questa cosa 3 anni prima. Vabbè. Beh, poi uno le fa uscire un po' quando cazzo vuole, no? Esatto. Tra l'altro, che ridere, a proposito di Io sono Giorgia, sul volo Milano-Atene, per quando sono tornato per il matrimonio, mi siedo in mezzo a una coppia. Mai spezzare. Esatto, vi faccio ragazzi, due signori di 60 anni, ma volete che mi metto sul finestrino in corridoio così state vicini? E lei mi fa, no, io sono al finestrino, mi piace guardare fuori e poi mi posso addormentare. Lui mi fa, io sono claustrofobico e preferisco stare sul corridoio. Va bene, raga, come cazzo vuoi fare? Mi siedo. E lei si stava leggendo il libro di Giorgia Meloni, la guardo con un sussulto dentro il cuore. Lui si stava leggendo un libro che aveva una quarta di copertina disgustosa, era una sorta di noir su dei texani che ammazzano dei neri, quindi si sembrava tipo l'inserto ideologico in Texas di Libero. Ci siamo messi a parlare, a un certo punto gli ho fatto, tu cosa fai? Gli ho spiegato il mio lavoro, faccio le energie rinnovabili in Africa. Momento clou, lui che mi guarda e mi dice, bravo, che così li aiuti a casa loro. Io lavoro in Kenya e Mozambico, se tu mi trovi un immigrato keniota o mozambicano a Milano, io ti giuro che ti pago una cena al giorno tutti i giorni da qua fino al 3090. Allora fai, in effetti non ho mai visto un mozambicano a Milano, siete qua, parto di non ce ne sa so. Neanche dov'è Mozambico. Esatto. Porca traia. In realtà era stato in Kenya, era uno che aveva girato, cioè non era l'ultimo dei babbi, cioè non era... Era andato ad aiutarli a casa loro. Era andato ad aiutarli a casa loro. A mettere in pratica quello che predica. Esatto. Era andato in Mali per scavare dei pozzi una volta. Proprio per aiutarli a casa loro. Però sì, insomma, quando vedi la gente che si legge il libro di Giorgia Meloni, dici... Bene. Abbiamo anche tagliato degli alberi per pubblicare sta cacata. Ah beh, allora, allora quello non lo leggeresti. Aia, questa è una domanda piccante. Sì, lo leggerei. Hai detto ma di non sì. Lo comprerei. Non lo, sì. Okay. Te lo regalo comprerei. Io. Questo è il punto. Esatto. Te lo regalo io, poi mi fai il riassunto. Sì, molto volentieri. Molto, molto volentieri. Beh, ma quei libri lì ci stanno. Sono, appartengono a quella categoria di cose meravigliose. Sì, le cose uniche. Esatto. Rare. Beh, ma per sfizio una volta mi sono letto anche un libro. C'è una persona che odia questo mondo, Andrea Scanzi, Il male. Cioè, proprio il male, veramente, quando... Il male che ha fatto lui l'informazione italiana a pochi altri. Ti consiglio di leggere un suo articolo su Calenda, perché è scritto in una maniera che è vergognosa. Ma uno può dire Calenda a me, tutto quello che ti pare, ma scrivere una roba del genere e essere pagato per farlo ti fa sentire male. Soprattutto considerando quanta gente studia giornalismo, dice, ma minchia, sul serio questo qua è il miglior prodotto che è uscito fuori. E no, una volta ho letto un libro di Andrea Scanzi, perché come lui si autodefinisce la rockstar del giornalismo italiano, ho detto, beh, chi sono io per non ascoltare la narrativa del Keith Richards de Noantri. E una merda, ti giuro una merda. Ma va un sacco anche in TV, no? Sì. Insopportabile, mannaggia Lilli Gruber, ti voglio tanto bene, ma quando mi inviti Andreone o Marco Travaglio, veramente. Comunque vedevo dalle note che scrivevi mortacci il capitalismo. E vabbè, volevo dirlo. Come sempre. Mortacci del capitalismo. Guarda, darmi più ferri. E attacco con la braccia del barbecue. Ah, che bello. Sì. Invece qua sulle cose a marinare. Mi mangerò qualcosa dal supermercato scontato al 50% freddo. Bellissimo. Sotto la pioggia. Tabulè. Dai. Che con questo caldino. Sparami bene, tu il cosa titolo. Chiudiamo con un pezzo di due minuti. Smith & Wesson Freestyle. Paraggi come un protettore. Cinema di strade, sono il proiettore. Non entravamo nelle disco, adesso apro la mia. Con una bitch tipo e Maria, la langosteria. Tolgo le proteine, metto merce nello shake. Giriamo il colossal del rap, non puoi fare remake. Sono in the game come EA Sports. Non ho paura di Dio, però fear of God. Faccio vedere al boss chi è il boss. Vedo che sei migliorato bro, chi è il ghost? Pensi di fottere con Marra, don't do that. Tutti questi scemi col Durek. Ferri e no bullets, non lo usi il ferro. Un diamante nella testa come Uzi interno. Con Michelle ha già postellato Michelin. Mangio fungicità che la tua parola è shittaci. Marra Smith e Guepe Weston, senti il doppio click. Diramazioni in tutto il mondo, tana delle tic. Tu sono minimi, crimini, li vedi su net. Se accalci in culo esci dall'Europa come la Brexit. Giura che hai visto G su una Miura. Del colore dei soldi come Paul Newman. Inverno alle Figi, estate a Santorini. Tutto l'anno in top ten Fimi. La prendevo a 4, la davo a 8.5 come Fellini. Atto, due Mister Rizzo con Mr. Fini. A me Fran sale la febbre con la PS. Forse la variante baronese, tutte ste baronesse. A mano King Marrakesh, per col flow da US e fisico da Maghreb. E non basta che ti fai un destro come G.I. Joe. E poi dici che eri ubriaco se vai KO. On point, on time, per stirà per Baba Yaga. Guarda la guerciata sopra Amazon Prime. Daddy cool, lei mi fa una pedicure. Manicure, per finire una penicure. Sava Sandir, lo stile Teron Charlize. Il gran visir ha percata la Prince Nazim. Auto nuova, stacco i Porsche, no benzina. Il mio zocca, sacca Porsche, la tua tipa. E lascio questa scema guarnita, sfascio questa scena guernica. Bro, la mia base è aziendale, la mia tipa è Zendaya. Paparazzato, spaparazzato su quella playa. Respect, se fai rap e vieni dalle strade. Ho fatto più io per te, fra te, che il tuo vero padre. Bitch!